e quindi la legge ordinaria, quella che approva normalmente il Parlamento, non sarebbe sufficiente per demolire questo diritto quesito, occorrerebbe addirittura una modifica costituzionale. È naturalmente inutile dire che il processo è molto complesso e peraltro queste persone che hanno retribuzioni e pensioni di questo livello non sono propriamente degli sprovveduti, cioè normalmente appartengono a lobby molto forti che sono in grado in Parlamento di esercitare un'influenza altrettanto forte anche quando sono in pensione. Però se il Parlamento non riesce a intervenire su questa cosa qua, che secondo molti o quasi tutti insomma andrebbe corretta, allora verrebbe a dire il Parlamento, come dice Di Battista dei 5 Stelle, è inutile. Cioè è inutile, non, a che serve? Cioè... Beh, ma sono 20 anni che il Parlamento sostanzialmente non ne becca una, nel senso che noi siamo riusciti a mettere insieme qualche legge di una qualche efficacia, per esempio contro la mafia, solo quando ci hanno fatto saltare per aria, cioè quando hanno fatto saltare per aria qualche magistrato. Allora, a malincuore, in qualche modo, siamo riusciti a mettere insieme delle leggi che ci hanno consentito, sia pure per pochi anni, poi subito sono tornati indietro, hanno fatto saltare la legge sui pentiti, volevano addirittura mettere in discussione le leggi sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, volevano ridurre i tempi delle indagini, accelerare la prescrizione, perché in Parlamento sono presenti interessi, perché la politica è così dovunque, intendiamoci, non solo in Italia, sono presenti interessi. E quello che proprio non riescono a fare in Parlamento è mettere al centro del mirino l'interesse generale, si chiama, cioè quello di noi tutti. Ed è la lotta politica che deve evidentemente costruire nel tempo le ragioni per soddisfare l'interesse generale. Questo, e si combatte in una maniera furiosa. Questo anche nel PD, immagino, non è che riguarda solo gli altri. Soprattutto nel PD, soprattutto i partiti nella loro struttura essenziale, almeno nella modernità, si distinguono in partiti effettivi, cioè che non appartengono a nessuno, e il PD è sicuramente un partito vero che non appartiene a nessuno, e poi ci sono i partiti padronali, cioè quelli in cui la lobby non si infiltra come può capitare al PD, ma è il partito, e ovviamente la lobby di cui parliamo. Cioè lei dice nel PD la lobby deve almeno scalare un po' di dirigenti del partito, nel PDL invece il PDL è una non c'è bisogno lobby. Però il risultato non è molto diverso da quello che dice lei, Emiliano. Cioè... Diciamo che almeno in un partito normale le lobby tra di loro si compensano, mentre in un partito personale dove praticamente l'azienda o la holding o il patrimonio poi hanno una proiezione politica, è chiaro che tutto è in funzione dell'esigenza principale, cioè l'interesse del capo. Questo rende un po' più complicato a quegli eroi che perseguono l'interesse generale di inserire il colpo che può qualche volta fare l'interesse del paese. In Parlamento comunque, storicamente, in tutti i parlamenti, far prevalere l'interesse della povera gente, di quelli che non comandano nulla, di quelli che non contano nulla, è sempre molto difficile. Ma per esempio le riforme istituzionali che il governo Letta Alfano hanno messo in cantiere, secondo lei potrebbero contribuire a migliorare questa situazione oppure non incidono? Cioè l'agibilità maggiore del Parlamento, del governo, la riduzione del numero dei parlamentari. Guardi, è una gran brava persona, io lo conosco bene, è un mio amico, è una persona con la quale sicuramente si può fare tutto nella vita, si può andare in vacanza, si può decidere di avere un'amicizia, si può decidere di fare tante cose insieme, però ovviamente un uomo normale come tutti gli altri, ed è inserito in un meccanismo devastante che è quello di un governo che in realtà tiene insieme due partiti che hanno perso quasi 10 milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni, che è ovviamente la rappresentazione della debolezza. Quindi se normalmente costruire il bene comune in Parlamento, nei parlamenti o in generale nella politica è un'operazione che prevede combattimenti furiosi, in questo momento Letta, che ha pure qualità eccezionali dal mio punto di vista, sta rischiando e probabilmente è già coinvolto in una catastrofica sconfitta personale e ovviamente indirettamente anche collettiva, perché Berlusconi non potrà mai consentire a Letta di avere dei successi, perché ove questo avvenisse questi successi verrebbero sicuramente ascritti alle qualità del Presidente del Consiglio, e dunque lo terrà continuamente con l'acqua alla gola, come si tortura si torturava nella guerra del Vietnam, insomma tenendo sempre le persone con l'acqua alla gola. Naturalmente Berlusconi in questo momento ha un unico interesse, quello di cavarsela. Sono 20 anni, che ha torto o ha ragione, può darsi anche che lui abbia tutte le ragioni del mondo, io non voglio entrare nel merito della solita polemica su Berlusconi, dico solo però che da 20 anni Berlusconi, ha torto o ha ragione, pensa a se stesso, pensa ai suoi problemi, ai suoi processi, alle sue aziende, alle televisioni, a quello che deve succedere, ai costi, che ne so, persino uno dei primi... Però Emiliano pensa a se stesso, ma prende anche un sacco di voti a ogni elezione. D'altra parte io ho sentito quel telespettatore che parlava prima, insomma è evidente che è un uomo che lavora dalla mattina alla sera, che non ha tempo di occuparsi di politica come facciamo forse io e lei, vede tutto questo apparato, vede, come posso dire, una capacità di accusare i giudici 24 ore al giorno e come ha detto quella persona, ma io credo proprio che lui sia innocente. E d'altra parte puoi prendersela tu con Italiano che dopo quello che vede in televisione o legge sui giornali alla fine pensa che Berlusconi è innocente, e insomma è anche naturale che questo sia così. Ma questo governo chi conviene di più, al PD o al PDL? Perché subito dopo la sentenza ci sono stati toni molto accesi, la manifestazione Bondi che aveva parlato di guerra civile, poi qualcuno del suo partito l'aveva un po' diciamo raddrizzata questa dichiarazione e attenuata, però questi erano i toni. Dopodiché una manifestazione anche abbastanza piccola, via del plebiscito, adesso tutti in vacanza e non succede nulla. Ma questi sono tutti italiani, la guerra civile degli italiani l'hanno fatta una volta tragicamente dopo la seconda guerra mondiale ed è stato un trauma che probabilmente non abbiamo ancora superato. Insomma, io escludo radicalmente che ci siano rischi di guerra civile, anche perché dovrebbe essere recitata questa guerra civile da marionette, da pupazzetti, che non hanno niente a che vedere con i personaggi del passato che purtroppo questa guerra civile l'hanno scatenata sul serio e ripeto ancora una volta, noi probabilmente paghiamo ancora il sangue versato tra il 43 e il 45, perché è una cosa che evidentemente non abbiamo ancora superato, se è vero che ci accusiamo ancora di essere fascisti, comunisti, di volere in qualche modo ribaltare i diritti delle persone, adoperiamo ancora una retorica che probabilmente era quella della Repubblica di Salò. In ogni caso è evidente che noi abbiamo bisogno di una ventata di novità, abbiamo bisogno che questa specie di principessa addormentata che è l'Italia, che è una principessa meravigliosa, voi immaginate che il mondo stesso non sarebbe uguale, non sarebbe com'è senza l'Italia. L'Italia è nell'immaginario collettivo di ogni cultura, di ogni essere umano sulla faccia della terra. Questa bella addormentata che manca tanto al mondo si sveglierà prima o poi. Io spero che si svegli presto, spero che il Partito Democratico, anche esso capace di svecchiarsi e di mandare, diciamo così, non in pensione o rottamare come si diceva, ma di mandare nel pantheon delle cose belle del passato tante personalità che ormai non sono più in grado di svolgere un ruolo, diciamo, progressivo, e che le giovani generazioni attraverso il Partito Democratico, quindi un luogo aperto dove persino un rompiscatole come me non può essere cacciato via da nessuno, non può essere messo a tacere. Se fosse, ecco, se fosse per lei però, Emiliano, che sì, lei è pure presidente del partito, credo, in Puglia? In Puglia, esatto. Quindi un ruolo ce l'ha, insomma. Però è un ruolo, come posso dire, di garanzia, non è un ruolo politico, è quello del presidente dell'Assemblea. Si guardano bene da dare un ruolo politico a lei, che altrimenti poi metterebbe in moto troppe cose, perché lei è una persona che dice quello che... Ieri, per esempio, dopo la direzione del PD non è che si sia capito sostanzialmente niente di quelle che sono le decisioni. Ma infatti io non ci sono neanche andato. Se fosse per lei però, cosa dovrebbe fare il PD adesso in questa situazione? Cambiare la legge elettorale, fare il congresso, sperare e appoggiare Letta, sperando che riesca a fare almeno qualche cosina, e poi a marzo al massimo, aprile, si va alle elezioni, si fa una proposta al Paese, ripeto, capace davvero di cambiare la storia dell'Italia. Io penso che questa proposta possa essere costruita con l'aiuto di Renzi, non è Renzi, diciamo, come soggetto che assorbe totalmente la proposta. Noi dobbiamo costruire con Matteo una proposta di cambiamento del Paese che ci restituisca speranza, efficienza, giustizia e soprattutto che ci tiri fuori anche dalle vecchie polemiche del secolo scorso. Ecco, però, poco fa l'onorevole Fico del Movimento 5 Stelle ha detto che lui non esclude che invece a settembre, quando si voterà sull'incandidabilità di Berlusconi, possibilmente con voto segreto, alcuni esponenti del PD potrebbero, diciamo, non votare per allungare anche un po' l'agonia di questa situazione e del governo Letta. È uno scenario, potrebbero essere magari quei 100 che avevano votato contro Prodi. Io veramente ho fatto tanti mestieri nella mia vita, l'unica cosa che non ho mai fatto è prevedere il futuro. È mago, è prevedere il futuro.